Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Allora, sono le 7:40 della mattina, stavo dormendo, stavo sognando, un terremoto mi ha svegliato, forte, anche abbastanza lungo, sarà durato 40 secondi. Vedevo sia il lampadario muoversi, ancora si sta muovendo, e anche tutte le pareti. Quindi si è tirato nelle Marche, Abruzzo, quelle zone lì, questo era abbastanza forte, era sicuramente attorno al 6. Speriamo che non ci siano morti, che non ci siano vittime, ma questo era forte. Ho acceso la webcam, la telecamera, per registrare ancora il lampadario in movimento e chiaramente qua sono al sicuro, però spero vivamente, spero che sia forte come penso e che anche questa volta sia andata come... Come stai? Quanta gente vi ha chiesto tra ieri mattina e questo momento come stai? Quanta gente ve l'ha chiesto attraverso i social network? Quanti messaggi avete avuto di persone che chiedono come stai? Come stai per cosa? Per un sisma che ha interessato una parte ristretta comunque del nostro paese, un sisma che, se Dio vuole, questa volta non ha fatto vittime, un sisma che ha colpito duramente una parte dell'Italia, un sisma che comunque si è sentito da Bolzano fino alla Calabria. Quindi tutti si sono accorti che c'era il terremoto. A questo punto accade un meccanismo, scatta un meccanismo molto singolare. Il terremoto lo sentiamo come scossa profonda, come movimento tellurico, come qualcosa che smuove improvvisamente la nostra percezione dello spazio, del tempo. Balla il letto, a qualcuno è caduto il televisore, cascano i quadri. Si muove la terra, che noi siamo immaginati a pensare come qualcosa di statico, inamovibile, la piattaforma su cui appoggiamo le nostre sicurezze, perlomeno di sentirci in piedi piuttosto che stesi, caduti o seduti. Si muove la terra, dobbiamo subito capire dove si muove la terra. Accendiamo i telefoni, la televisione, ci sono dei servizi come quello di Sky che a tempo reale ci fa capire esattamente dove è accaduto. Però sappiamo che questa scossa l'abbiamo sentita, la sentono anche i nostri cari, quindi abbiamo subito il desiderio di segnalare innanzitutto che c'è stato il terremoto. E come si fa? Si mette uno status su Facebook, magari in lettere maiuscole, che corrisponde all'urlare, con scritto «Ha tremato la terra», «È stata forte», «Che botta», e via di lì. Cominciano queste segnalazioni. Poi cominciano le persone a te più vicine, gli amici, i parenti, cominciano a mandarti messaggi «Come stai?». Io nella giornata di ieri mi sono rifiutato di rispondere come stai, a un certo punto mi sono anche scocciato, ho mandato qualche persona a quel paese, ma che ti importa come sto? Perché non me l'hai chiesto ieri, non me lo chiederai domani? Sto come sto tutti i giorni. Il terremoto è stato in una parte dell'Umbria, delle Marche, non è stato a Roma c'è stato un po' di tremolio, ma non è cascato nulla, non è morto nessuno si è fatto male, quindi sto come sto tutti i giorni, sto un po' raffreddato rispetto al resto. Ecco, vorrei oggi riflettere con voi su questa nuova lettura parallela del sisma. Io sono abituato a eventi catastrofici che coinvolgevano il paese, in cui scattava magari una catena di solidarietà, addirittura mi ricordo dell'alluvione del Polesine attraverso la radio, tutte le notti c'era la radio che diceva lira per lira quelle che erano le donazioni delle persone per gli alluvionati del Polesine. Poi, andando avanti, abbiamo avuto parecchi eventi sismici, l'Italia si è stretta solidale attorno alle zone terremotate, poi naturalmente, come accade nella prassi quotidiana, l'Italia non colpita direttamente se ne è disinteressata. Poi siamo arrivati all'epoca dei social, in cui ci sono le letture, le fantaletture, le metaletture, l'abbassamento strategico della percentuale Mercalli del sisma per non dare i contributi ai terremotati, complotto. Si dice da almeno qualche mese questa idiozia che circola in rete, qualcuno ancora ci cade, e c'è caduta una senatrice della Repubblica, questo fa veramente ridere, che Enza Blundo, senatrice della Repubblica, ha fatto un tweet, dice la televisione prima 7.1, poi 6.1, è stato declassato per non dare i soldi ai terremotati, Renzi infame, parte così subito la catena di tutte le persone che ci stanno dietro. Poi tutta un'altra serie di storie fantastiche. Mi ha chiamato questa mattina un amico mio dalle Marche e mi ha detto: siamo qui tutti spaventati perché hanno detto che entro 48 ore ci sarà una scossa ancora più forte. Altra bufala che sta girando in rete. Hanno intervistato un geologo, ha fatto una sua lettura da cui qualcuno ha ricavato la semplificazione. entro 48 ore una scossa ancora più forte, e sta girando in rete, ci sarà una scossa ancora più forte. Poi le fantaletture mistiche, Antonio Socci che dice che il sisma ha colpito le zone di San Francesco e San Benedetto, quindi lui che vorrebbe che tornasse Ratzinger a fare il Papa, questo Papa qua è troppo blando verso le terrificanti storture del mondo. Quindi Antonio Socci, giornalista che si crede in grado di poter definire chi debba essere il Papa, se la prende con il Papa, come se il Papa non vedesse questo segnale, colpita la terra di San Benedetto, vedi tu che ti dai ai protestanti, a Lutero che ha distrutto il cattolicesimo, consacra il mondo alla Madonna. Beh, voi come la pensate, come avete vissuto questo terremoto parallelo, voi che abitate lontani, che abitate in Trentino, che abitate nel Lazio, nelle zone non colpite, ma abitate in Puglia, in Calabria, in Campania, ecco come avete vissuto questa sorta di onda sismica delle stronzate che gira molte volte in rete, anzi gira in maniera molto più efficace in rete in questo momento. 800 24 00 24, chiamatemi tra un istante, vi ascolterò con grande attenzione. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Allora, un video terminato, tipo sei orchi, non trovo la maglietta, e adesso mi cambio e registro anche il video dei preferiti del mese. Cioè, mamma mia, appena fatto il terremoto fortissimo, tipo sto leggendo i vostri commenti su Facebook che vi ho scritto, insomma, se avete sentito, lui è stato davvero fortissimo. Ecco, un'altra scossa in questo momento. Ecco, lo vedete che stanno continuando i crolli della Basilica, un altro grosso macigno è crollato proprio in questo momento. Purtroppo sono ancora, vorrei rassicurare sul fatto che noi siamo in una posizione tranquilla perché siamo al centro della piazza, ci spostiamo un po', ci chiedono i vigili del fuoco di spostarci un po' perché alcune pietre potrebbero cadere, sì, ci può essere rotolamento. Esistono vari elementi di partecipazione a questo sisma grazie alla diffusione dei media molto più capillari rispetto a episodi passati. Vi chiedo di chiamarmi all'800 24 00 24, come avete vissuto l'onda lunga del terremoto, attraverso le persone vi chiamavano, vi dicevano come stai. Qualcuno mi scrive: Nicoletti, perché ti dà fastidio che ti chiedano come stai? Non è che mi dà fastidio, trovo che l'istituzionalizzazione del come stai, del chiedere a tutti comunque come stai, il doversi confrontare, è una cosa molto umana. Però registro il fenomeno come un fenomeno nuovo. Non è mai accaduto prima che un terremoto creasse delle catene così potenti di persone che usassero, impiegassero il loro tempo solo per verificare e come gli altri avessero avuto quel tipo stesso di esperienza, che mi rendo conto che è un'esperienza fuori dal normale, fuori dal quotidiano. Dicevo che è facile che molte volte ci si senta di vivere un evento in maniera molto più diretta. Vi siete resi conto quanto ormai i reportage a tempo reale fatti soprattutto da Sky riguardo al sisma siano qualcosa che ci fa vivere in maniera quasi immediata? La fuga delle monachelle da Norcia, che è un'immagine che probabilmente segnerà l'iconografia di questo terremoto, un gruppo di sorine che scappa in mezzo alle macerie, seguite dai pompieri, e alcuni fratacchioni strani vestiti con paramenti strani, non so a quale ordine appartenessero, che stanno lì e si guardavano bene di andare a prendere le suorine, perché c'erano i pompieri, poi non si sa mai, ti arriva un selcio sulla testa, non fa male, fa bene a nessuno. 800 24 00 24, come stai? Questo è stato il terremoto dei come stai, per chi naturalmente non ha avuto i sassi che cadono sulla testa. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sto ascoltando con apprensione e ansia il suo contributo a questa trasmissione che è una arrampicata sugli specchi, ma la faccio volentieri, prego. Il mio contributo è stata una sensazione di indignazione per il contributo mediatico di tutti quanti coloro i quali che vedevano il loro lampadario ondeggiare e pensavano fosse importante in quel momento, questo sul primo momento. Poi successivamente ancora più indignazione quando ho sentito i super esperti che dicevano è una coppietta oppure di eventi, oppure ci sarà un evento maggiore, oppure non ce ne sarà un altro più in là. però l'unica cosa che nessuno ha sottolineato è che la prima reporter ha segnalato che mezz'ora prima dell'evento tutti i cani dell'epicentro hanno cominciato ad abbaiare in modo furioso. Quindi io dico, in questa epoca di ipertecnologia forse abbiamo dimenticato che i terremoti ci sono sempre stati e dei segnali potrebbero essere intercettati, forse fanno guadagnare poco in coloro i quali intendono fare business, però alcuni segnali potrebbero essere intercettati e aiuterebbero. E questo mi interessa, però Alessandro, entriamo in più in questo merito. Dunque, lei ha notato che la cronista di Sky ha detto i cani abbaiavano prima, è una vecchia cosa delle campagne, io che vengo dalla campagna, c'erano anche i contadini, il cane sentiva da prima, il cane che diceva che abbaiava, c'era il terremoto, così c'era a Perugia, e tutti a pensare che se abbaia il cane c'è il terremoto, che non è naturalmente una lettura tipo scientifico, vale per le persone che vivono il territorio, soprattutto in ambienti agresti. Ma questo come potesse essere trasformato, secondo lei, in un dato scientificamente usabile? Bisognava subito diffondere un messaggio su Facebook: stanno abbaiando i cani. Guardi, qualcuno ha anche fotografato gli storni che volavano, grandi, come fanno spesso, agglomerati di uccelli che si alzavano improvvisamente, spaventati dal sisma. Altri hanno detto che lo sentivano col mal di testa, altri avevano senso di nausea. E fa parte della messaggistica che lei ha segnalato di fare la foto del lampadario che ballava, che poi a sua volta diventa notizia, perché nei telegiornali ho visto ieri sera una sorta di tormentone fatto da un montaggio di tutte le foto dei lampadari che ballavano che erano state fatte dalle famiglie italiane. Ecco, come l'avrebbe risolta lei? Ma io non so come l'avrei risolta, però senz'altro si fa molto poco nella prevenzione, quindi se alcuni fenomeni possono essere studiati, fenomeni che magari non sono proprio naturalmente scientifici, però se questo è un dato di fatto potrebbe essere un metodo anche empirico per e poi soprattutto evitare di sentire questi scienziati che dicono tutto e l'opposto di tutto sul momento. È chiaro che se non si sa se è 6.1 o 7.1, figuriamoci si può sapere se è la faglia precedente o la faglia successiva. E mi ha dato fastidio lo stesso livello dei fratacchioni che si inginocchiavano a pregare in mezzo alla piazza. Sì, una scena inguardabile, quella inguardabile. Io mi sono permesso di criticarla su Facebook e i miei amici mi hanno detto manco te rispondo. E io non capisco. Allora, Alessandro, anche l'aspetto mistico, devo dire che ha molto colpito questo terreno. Io ho trovato inguardabile quella scena delle persone che si inginocchiano sui sassi in piazza, belli messi a favore telecamera, e fanno la scenetta di loro che pregano davanti alla statua di San Benedetto. Ma se proprio vuoi pregare, mettiti in un angolo. Se proprio vuoi pregare in quel momento, quando ti cascano i sassi sulla testa, ma nemmeno nei film in costume, cioè, i film quelli di genere peplum, in cui c'erano i cristiani mangiati da leoni dentro il Colosseo, altra grande bufala storica, c'erano i cristiani inginocchiati che pregavano mentre doveva arrivare il leone per mangiarseli. Grande sceneggiata a favore di telecamera, e naturalmente se lei lo mette in rete rispondono naturalmente quelli di altro versante, come, che ne so, stamattina sono arrabbiati con Sgarbi che ha detto, non so, il Papa se ne frega, Dio si fa i cazzi suoi, qualcosa del genere, tutti, Sgarbi ha bestemmiato e via dicendo. Però è interessante quello che dice lei, perché mi aiuta ad andare avanti in questa fanta lettura. Stiamo parlando di cose che nulla hanno a che fare con il terremoto, ma che sono state legate alla emotività generale attorno al terremoto. Do un altro segnale, 800 24 0024. Chi di voi pensa o chi di voi ha discusso in rete sul fatto che la colpa del terremoto siano state le trivelle? Perché un altro filone importante era il terremoto causato dalle trivelle. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Chiedo scusa innanzitutto per la voce, ma come te sono totalmente raffreddato. Vabbè, senta, io un po' da tre giorni mi sei così. Andiamo avanti. Esatto. Allora, volevo intervenire mettendo in mostra due aspetti. Un primo aspetto è social, cioè il famoso Facebook. Non so, non ha parlato di una cosa devastante che è successo, cioè praticamente che Facebook chiede, o meglio, dice di far sapere alla gente che tu stai bene dopo. Sì, l'ho detto, l'applicazione, c'è una nuova applicazione. È già quella è follia. Lei pensi che io ho qualche decina di migliaia di persone che mi seguono sui vari social, e questa mattina dovrei rispondere a tutti e dire che sto bene, e mi stanno arrivando migliaia di notifiche, gente di cui non sapevo nemmeno dell'esistenza, che mi dice che sta bene. Sono contento in generale. Ma soprattutto volevo dire un'altra cosa, sempre per le varie fantateorie che mi hanno fatto, a questo punto dico, mi fanno ridere, perché a questo punto forse sono l'aspetto più divertente, se mi passa usate questo termine in un momento di tragedia, quelle che ti fanno sorridere, che ti fanno anche, e che e questo si può trovare anche su vari siti e su varie immagini, se volete vi posso dire anche dove, secondo cui c'è una teoria secondo cui l'Italia è praticamente viene associata a un cracker. Quindi l'Italia ha avuto un terremoto al centro, si è spezzato perché c'è stata l'immigrazione che è arrivata al sud, ha appesantito l'Italia e l'ha spezzata al centro. Sembrerà follia, ma se andate sul sito di Analfabeti Funzionali, cioè sulla pagina Facebook di Analfabeti Funzionali, esiste anche gente che ha postato una roba sì, del genere. L'analfabetismo funzionale è esattamente questa incapacità di gestire la propria emotività, ma a volte la propria ignoranza, la propria mancanza di capacità di approfondimento e esprimere subito in rete quello che uno passa in mente, l'analfabeta funzionale. E un esempio di analfabetismo funzionale può essere questo, l'Italia che si spezza perché troppa gente si sta spostando. Ma quella del trivelle, secondo me, se qualcuno me la riesce a dettagliare, è molto più elaborata, è molto più credibile, fa parte del grande complotto, perché c'è anche la teoria del complotto che, come le scie chimiche servono a modificare il clima, anche i terremoti sono causati artificialmente dalla CIA, dai poteri forti, dai poteri occulti, per cercare di contenere comunque il dissenso. Ti do un terremoto e quindi ti ricostruisco quello che è il segno divino. Una volta gli uomini temevano gli dèi proprio perché mandavano terremoti, oggi il grande potere occulto dei padroni del mondo ci manda terremoti artificiali. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto, Giovanni. Pronto? Sì, la sto ascoltando, Giovanni. Sono prontissimo io. Guardi, io sono uno di quelli che si è svegliato di colpo, ma non perché per il terremoto, perché non capivo, perché c'ho due gatti che dormivano in fondo al mio letto e mi sono messi a zompare tutte le parti, pensavo avessero trovato una preda in... non quindi il secondo più. Elemento, i cani che ululano e i gatti che zompano sul letto? No, sono zompati giù e correvo da tutte le parti, non capivo, poi ho visto oscillare il... Cioè gatti impazziti, chi ha gatto impazzito è segno che sta arrivando il terremoto. No, domando semplicemente io. Perché ballava la casa, c'era il lampadario che oscillava, lì non ho capito cosa succedeva. Siccome, ha fatto un video lei almeno di questa situazione? No, perché mi sono svegliato di colpo ed ero non ho capito subito neanche. Ma i gatti che verze mettevano? Che verze mettevano? Che in passato di la prima volta l'ho subito, 40 anni fa, mi ricordo, ero sul terrazzo, ebbi l'impressione che ci fossero due mani di un gigante che lo scuotesse violentemente. Lì ebbi veramente paura. Poi allora, gigante invisibile anni. E gatti impazziti, due segnali di percezione. No, non erano impazziti, erano solo impauriti, penso. Poverini. Ma come facevano? O stanno zitti? Ho fatto un'osservazione una volta, dovevo farla mille volte per capire come si comportano i gatti in terremoto, ma per quanto riguarda quello che volevo dire di concreto è che ho ascoltato per ore e ore dopo il terremoto del 24 agosto che ha buttato giù, che ha fatto sparire la matrice, sì. Ho fatto attenzione a quelli che potevano essere gli aspetti, diciamo, di intervento immediato e di bravura. E ho notato, per esempio, questo soccorso alpino di Torino, che non ho mai sentito nominare, che alla fine dei conti ha salvato 15 persone, tirandole fuori dalle macerie ad Amatrice, quindi una squadra di 15 persone che hanno salvato 15 seppelliti, praticamente. Questo mi fa vedere come, valorizzando queste esperienze, questa gente bravissima, si possono fare un'infinità di gruppi che al momento buono sono in grado di tirare fuori a loro volta 15 persone avendo le 15 quindi diciamo lei fa parte di un'altra categoria di umanità, quelli che forniscono, diciamo, i consigli pratici. Ieri ho visto un'intervista lunghissima da parte di una giornalista, una signora arrabbiata con una bestia in camicia la notte, non c'era più la casa, è crollata tutto. C'è lei signora un po' arrabbiata, cioè, sì, arrabbiata, mi girano tanto. Ma perché arrabbiata? Perché non vedo nessuno. Ma perché cosa dovrebbero fare? La signora cominciava a fare delle ipotesi ingegneristiche, dovrebbe cominciare a fare le piattaforme per costruire le case e seriamente la stavano ascoltando. Anche un altro sintomo di questo social sisma è quello che ognuno può dire quello che vuole, ognuno non è più commissario tecnico di una squadra di calcio, diventa precisamente un sismologo, diventa precisamente un ingegnere, uno strutturalista, strutturalista nel senso un ingegnere che si occupa di struttura, diventa un analista di tutti gli aspetti tecnici legati a un sisma. 800 24 0024, a tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. L'uomo può determinare i terremoti, Questa volta il punto interrogativo non lo metto come quando ho già parlato dell'argomento più di un anno fa a proposito del terremoto dell'Emilia. Sì, perché è stato visto ed è stato studiato, e ci sono ormai le prove, che c'è un rapporto diretto tra le attività di estrazione di gas naturale attraverso il fracking e certi terremoti. Utilizzando sempre le sci chimiche, che non sono altro che metalli pesanti come alluminio, bario, stronzio, che rendono l'aria estremamente elettroconduttiva, e questo consente di controllare le forze della natura, quindi anche scatenare cataclismi, uragani, terremoti e quant'altro. Perché oggi si può dichiarare una guerra a un paese alleato e per controllarlo meglio solo si sperimenta questo tipo di guerra non convenzionale, ma addirittura 800024 stiamo dando visibilità a quello che per molti probabilmente non è nemmeno un dato di cui sono a conoscenza, che esiste una fanta lettura del terremoto, fanta lettura sul piano emotivo, l'applicazione di Facebook per sentire e capire quanto stanno bene i nostri amici di Facebook dopo il sisma. E c'è bellissimo, c'è la piantina geolocalizzata con tutte, diciamo, le varie onde sismiche dall'epicentro, ma che si allargano in realtà a tutti i nostri amici. E quindi ogni giorno chi vede questa applicazione deve confermare che stia bene, e la conferma per noi una notifica. Quindi ci arrivano centinaia di notifiche di persone di cui onestamente non sentiamo assolutamente la mancanza, che ci segnalano che stanno bene per cosa? Per la scossa di terremoto. E poi le fanta letture di tipo complottistico, parascientifico sul terremoto, come questo signore avete sentito, che parla ancora di scie chimiche, di stronzio che sta nell'aria, che può provocare comunque un terremoto artificialmente. Mi è stato segnalato lo screenshot di un altro messaggio di quelli che stanno circolando in queste ore, che parla di cannoni ionosferici che sono presenti nello spazio e che accelerano le particelle di alluminio, appunto, che sono nell'aria, per creare terremoti. Ma questo crea poi una sorta di similitudini fra i luoghi del terremoto e alcuni messaggi occulti che ci stanno mandando i padroni del mondo. Dice: l'Aquila, amatrice, arcuata, accumuli. L'Aquila è simbolo del potere, l'Aquila birkana. Ricordate che Berlusconi fece venire Obama all'Aquila solo per verificare l'istruzione e non diede un centesimo? Vuol dire, vieni a vedere quanto è fatto bene questo lavoro. Poi dice: amatrice, Matrix. Quindi Matrix, l'illusione creata dalle macchine. Poi arcuata, Royal Ark, non so che vuol dire l'arco reale, c'entra, forse c'è di mezzo anche l'Inghilterra, non lo so. Accumuli, perché sono accumuli di macerie. Poi dice: la coordinata GPS è latitudine 42, longitudine 13, e non aggiungo altro. Non so cosa aggiunga a me, ma evidentemente del 42 nel 13 è la chiave di lettura del vero grande complotto che causa il terremoto. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Allora, io non vorrei annoverarmi tra i frequentatori assidui di Facebook e compagnia bella, ma piuttosto fra gli ascoltatori assidui, oltre che di Radio 24, anche di Radio 3. Proprio stamattina alle 11.30, intorno alle 11, dalle 11.30 in poi, è intervenuto in trasmissione il direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, professor Doglioni, al quale è stato sottoposto il quesito se ci sia un qualche collegamento fra i terremoti e le trivellazioni. Ebbene, lei potrà comunque verificare quanto le sto dicendo. Sì, andiamo al punto. Ripeto, stamattina, ecco. E allora, il professore, con molta onestà intellettuale, ha detto che in alcuni casi è stato dimostrato scientificamente la correlazione tra terremoti, anche se di modesta entità, e le trivellazioni. E allora? Ha parlato di Oklahoma ha parlato di Val d'Agri. Oklahoma in America, naturalmente, ma Val d'Agri in Italia. Ecco, questo ho sentito dire. Quindi lei deduce che l'ha detto assurda. Il professor Doglioni, naturalmente, alla Radio 3, in 30 secondi, in un minuto, a un giornalista domandava, dicendo di questi, citato questi due casi, esiste una correlazione fra il terremoto che abbiamo vissuto in questi giorni e le trivellazioni. Va bene, è il suo punto di vista. Ognuno, se lei ha fede in Doglioni, abbia fede in Doglioni. Io sinceramente do all'evidenza scientifica un altro valore e altri parametri di verifica. Però, come vede, lei questa sua lettura farà sì che si scatenerà adesso una serie di messaggi. Vedi, Nicoletti nasconde il complotto, le trivellazioni hanno fatto venire il terremoto. Paolo, buongiorno. Buongiorno, volevo soltanto dire una cosa. Alle 8 ieri mattina ho acceso la televisione alla 7 e lo speaker che stava raccontando questo argomento a un certo punto dice ci viene comunicato 5.6, poi dopo due minuti altra comunicazione 5.3 e ne ha ripetute quattro di queste qua, una diversa dall'altra, perché gli venivano comunicate. Un risultato è stato che dopo 10 minuti fa dall'istituto, e non so quale sia, americano, che hanno, dice, tutti i satelliti attorno eccetera e tutte le potenzialità, viene comunicato 6 e 7. Improvvisamente tutti i nostri, che non sapevano che cavolo sparare, secondo me si sono allineati agli americani. Mi chiedo, ma come può essere che nel giro di 10 minuti ognuno dica delle cose smentendosi in continuazione e poi tutti vadano a allinearsi, ma immediatamente? Tant'è vero che se voi... Sì, Paolo, dovete... scusi, no, Paolo. Voglio sapere, dietro questa domanda, cosa c'è? C'è il sospetto che ci sia veramente... No, c'è il sospetto, cioè, un'artefazione. No, ma di un'ignoranza totale, perché non si può sparare queste cose dal 5 al 4, tanto Paolo, posso dire una cosa, Paolo? Le rispondo per quello che riguarda il mio lavoro, che è il lavoro di giornalista. Mi rendo conto che quando l'informazione vuole... calpestare l'istante e vuole esserci lì nel momento, forse dovrebbe limitarsi a descrivere quello che vede davanti, descrivere quello che vede, commentare le immagini. Quando si vuol dare a tempo reale il dato sulla magnitudo di un sisma, semplicemente magari non avendo in mano le fonti dirette di quelle che sono le entità autorizzate a dare un dato certo, è chiaro che si fa esattamente quello che facciamo noi: cominciamo a scartabellare in rete, guardiamo terremoti.it, sismasicuro.com, tutto sul terremoto.org, queste cose qua, e si guarda anche Twitter, perché molte volte la fonte di questi reportage interminabili sul tempo reale, che possono benissimo darci la sensazione di quello che accade dandoci le immagini, che è la cosa più importante, fondamentale. Gli inginocchiati davanti a San Benedetto, le suore che corrono, la signora disperata con la casa che cade, il fumone che viene dalle campagne con i paesi, l'immagine per me terrificante di Castelluccio rasa al suolo. Castelluccio è uno dei luoghi del mio immaginario profondo, luogo pieno di leggende. Sognavo queste fate che scendevano di notte a ballare con i pastori di Castelluccio e si accorgevano che fossero personaggi strani solo quando sentivano il ticchettio dei loro zoccoletti. Erano gli zoccoletti di capra, erano donne bellissime, figuriamoci. I castelluccesi non vedono una donna dalla fondazione del mondo, vedono queste donne bellissime, erano fate. Ecco, tutto questo messo assieme, comunque, tradotto in informazione scientificamente corroborata, è un'antitesi impossibile. È impossibile dare numeri esatti su quella che è la magnitudo di un sisma esattamente a tempo reale. Posso farti vedere mentre cade la casa, ma prima di darti il dato devo aspettare le fonti. Quindi non è che si allineano solo sull'America, probabilmente era la fonte ritenuta più autorevole in quel momento. Oggi quello che leggi sui giornali probabilmente è il dato esatto, è un dato sedimentato, verificato, controllato e condiviso. Matteo, buongiorno. Buongiorno Gian Nicoletti, buongiorno. L'ascolto. Ma io volevo sottolineare un altro evento che secondo me è drammatico di internet, in particolare di Facebook, questa applicazione che adesso ti dice segnala anche tu che sei al sicuro dal terremoto del centro Italia, ok? Massacrati le pagine Facebook di gente che è tipo a Roma, io sono di Roma, un mio amico che abita al piano di sopra di casa mia, tu non puoi mettere io sono al sicuro, perché voglio dire, e così decine e decine di persone, e internet, la bellezza di internet è che poi ti puoi documentare, essere in contatto con mille persone, ma la gente segue a ruota tipo gregge quello che succede. Quindi lei forse non ha sentito prima, Matteo, abbiamo parlato a lungo. Il come stai questa mattina è il punto da cui sono partito. Quella sorta di come stai immotivato, ingiustificato, non corrispondente a probabilmente una reale apprensione per lo stato di salute di una persona, è l'algoritmo di Facebook che questa volta si è elaborato e si è adattato a quella che è la nostra nuova ansia, l'avere sotto controllo tutti i nostri amici e avere con loro l'idea di potersi verificare l'emozione della scossa sismica. Quello che per qualcuno è stato la caduta della casa, per gli altri diventa un'emozione da condividere. È come se avessimo visto un tramonto, come se avessimo visto un fantastico paesaggio e tutti assieme vogliamo dire: e a te cosa è sembrato? Ci fermiamo un istante, 800 24 0024, tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, chiedo scusa per la mia voce fugace, per la mia ugola fallace, però anche io sono un essere umano. Divertentissimo questo SMS, Confindustria, figuriamoci se sfiora le trivellazioni. Certi birignao ce li potevi risparmiare stamattina, ecco, questo che già mi vede assoldato in un complotto confindustriale per nascondere che le trivellazioni stanno dietro a questi terremoti. Ma quali trivellazioni? Trivellazioni di chi? Di cosa? Su quale terreno? Quale terremoto? No, improvvisamente c'è un grande complotto. Ci nascondete che fanno le trivellazioni e quindi c'è il terremoto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, chiamo da Ravenna, sono un tecnico che lavora sulle piattaforme offshore qui in Adriatico. È un trivellatore quindi? No, non sono proprio nella geologia e nella perforazione, ma sono praticamente nel settore. Comunque è un tecnico della trivellazione, possiamo sì, dirlo. Esatto. Ecco, allora ci rassicuri per quello che può, per quello che è sua competenza, che non ci sono trivellazioni capaci di far accadere un evento sismico come quello che è accaduto questi giorni. Innanzitutto parliamo della tecnica cosiddetta del fracking, che è molto adoperata negli Stati Uniti e in Italia non c'è assolutamente, non è adoperata. Quella del famoso terremoto che diceva l'esperto questa mattina a Radio 3. Sì, ecco. Io dovrebbe dire il tecnico dove ha visto e dica quali sono i pozzi con la tecnica fracking. E cos'è il fracking? Per capire. Il fracking in poche parole è la perforazione fatta nel pozzo e poi si manda un fluido ad alta pressione e frattura le rocce. E quindi una sorta una cosa che, molto, che ha un impatto forte, chiaro così. Sì, in e Italia qui negli non Stati si Uniti fa. È fatto. È una bomba in sotterranea, Italia, quella è una cosa forte, sì. Ecco, esatto. Mentre in Italia quella tecnica lì, qua per le piattaforme in Adriatico e così via, non c'è, si fa la perforazione classica, si giunge nella zona classica vecchia c'è trivella che ci ha dato tante soddisfazioni, va sotto il buco. Esatto, si va sotto, si arriva nel terreno spugnoso e la gente deve capire che sottoterra non ci sono delle grandi caverne vuote dove c'è il gas e il petrolio, ok? Ci sono delle rocce spugnose. Ok, dove poi praticamente si ricava lo spazio e si tira su il gas a pressione che c'è giù. E questo è la tecnica classica, non è quella del fracking che ho usato negli Stati Uniti per lo shale gas. No, lo dico perché tante volte, sa, citare soltanto il direttore di un istituto che parla a Radio 3, che avrà detto tantissime cose, come fonte certificata del grande complotto delle trivelle, sembra un po' esagerato, mi suggerisce in tonti per dare elementi di saggezza, ma non è possibile rendere saggi dei disagiati di internet di questo livello. Il terremoto di Lisbona del 1755 non è stato sicuramente causato da trivellazioni. Max, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, volevo replicare a quello che stavi dicendo tu, cioè del fatto che su Facebook questo post dove gli amici ti chiedono come stai, come non stai, io ce l'ho, cioè mi è arrivato sto post, però non è che diciamo è l'amico che ti chiede come stai, sei tu che sull'applicazione dici che stai bene, capito? Io non lo so, però potrebbe essere anche una cosa buona, perché io telefono da Vasto, però beh, lei sta in zona comunque, per lei è un pochino più la zona importante. Sì, sto vicino al te dove è stato registrato la scossa, insomma. Sto ad Ascoli, capisce? Quindi è interessante capire come stanno i suoi amici. Vede. Sì, al limite, cioè, uno vede. C'è dubbietà, ma io non voglio negare che in un momento di disastro sismico nazionale i social network saranno fondamentali o sono fondamentali o non siano utili nella zona. Sì, ma... registro un fenomeno di costume che improvvisamente esiste una sorta di parallela lettura e partecipazione emotiva di un evento sismico che passa attraverso i social network. Non so quante persone sia accaduto a lei, ma quasi la maggior parte delle persone di cui ho un contatto su WhatsApp ieri mi dicevano come stai, come stai, come stai. Se non rispondevano insistevano: tutto bene, mi raccomando, rispondimi. Già mi vedevano, che ne so, con un pietrone della cupola di San Pietro che mi schiacciava. Bastava sentire che a Roma non era successo nulla. Bisogna comunque partecipare, comunque stare dentro, comunque stare in questa situazione. Mi scrive un ascoltatore, cioè: salve gentilissimo Nicoletti, noi che viviamo in Sardegna e non abbiamo mai sentito una scossa, ci fanno avere la psicosi pure qui, prima che diciamo ci fosse il social network. Quindi anche gli amici sardi sono partecipanti di questa applicazione del come stai. Vorrei chiarire la posizione, non è che perché qualcun altro mi scrive come tu sei stato fra i primi a parlare di social network, adesso la prendi. No, io voglio semplicemente capire e capire assieme a voi come cambiano gli usi sociali, come cambiano gli atteggiamenti rispetto a questo tipo di fenomeno. Se da un certo punto di vista io mi sento improvvisamente al centro dell'attenzione di tante persone solo perché c'è un terremoto, questo è un segnale indicativo, vuol dire che c'è stata una esperienza emotiva collettiva forte, coinvolgente, che ha sicuramente coinvolto al suo interno molte persone e sulle quali appunto la gente ha sentito improvvisamente il bisogno di consultarsi, di sentirsi. Qualcuno mi dirà, mi obietterà, visto che in questo momento nessuno sta chiamando, io devo menarmela comunque fino alla fine della trasmissione, ma lo faccio molto volentieri, apprezzerete lo sforzo. Mi sembra che andremo sempre più, come sempre accaduto nel mondo delle relazioni reali, ad orientarci verso l'immersione nello stato emotivo parallelo. Questo mi fa pensare che avremo sempre meno reale e concreta, immediata e anche fattuale partecipazione per le persone che veramente sono senza tetto. Saremo sempre più attratti comunque da questa sorta di vacua e totalmente inconsistente partecipazione affettiva per le persone che ci dicono come stai, cui rispondiamo come stiamo. Marinella, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Io avevo scritto una poesia proprio il giorno prima dell'ultima grande scossa. Quindi porta sfiga, vuol dire, questo è il significato. Ma... Eh no, se lei scrive la poesia il giorno dopo succede il terremoto. Speriamo proprio di no. La chiameranno Cassandra, Marinella. No, è che io scrivo, collaboro per una rubrica, Iesi Rima, scrivo poesie. A Iesi, proprio in zona diciamo... Nella città, se non è rossa, è piuttosto rosa acceso. Ma come la chiamano? Il suo nome d'arte qual è? No, io mi chiamo Marinella e non ho un nome d'arte. A volte mi sottoscrivo Bai la vita è bella perché adoravo il film di Benigni. Senta, diciamo che ho preparato i lettori alla scossa, hanno letto, hanno gradito, ma... mi faccia capire il meccanismo. Lei, Marinella, ha scritto la poesia perché ha già previsto il terremoto, l'ha pubblicata? Assolutamente no, non sono Cassandra. No, allora, l'ha pubblicato questa poesia prima che accadesse? È uscita esattamente la mattina, l'avevo scritta. È uscita prima o dopo? Questo è importante. Del sisma, è il giorno prima del sisma. Cioè il giorno prima del sisma lei ha scritto una poesia. Allora Marinella, in questo momento non occorre che io tenga le mani sul microfono perché sta su da solo un bel supporto. Mi accenni soltanto un fraseggio, qualcosa della sua poesia per capire esattamente fino a che punto è stata profetica. E dice il titolo: La terra trema. Ma perché le è venuto in mente di scrivere La terra trema il giorno prima che non tremava? Solo questo voglio capire. E no, non faccia sta risata sinistra. Simpaticissimo. Vabbè, che Halloween. Sì, allora, comincio. Simpaticissimo, il 31 ottobre va bene. Distenda sul tappeto musicale. Mi distendo? Ma leggo, tento di leggere. Terra che mai fu piegata alle fatiche dell'uomo, ingrata ti muovi gigante e divori il tuo ventre. Umida notte di ottobre e di fredda cortina, la guerra dichiari incurante del pianto di un bimbo. La madre allatta al suo seno paura e dolore. Sibila il vento e trascina le foglie e la calce. Stendere un velo pietoso non ti è dato di fare. Potente l'urlo inumano a valle ridonda. gli affanni, gli aiuti, i soccorsi si spendono ovunque. Il pasto frugale di mensa profuma nel desco. Odore di casa e famiglia, ricordo. Ma magari lasciamo sospeso il finale perché ci porta via la sigla. Però lei vuol dire, quanto ci ha messo a comporre questo suo esercizio poetico? Non è che l'ha fatta in 2 minuti, no? Ma che scherza, io sono eccezionale, scusi se glielo dico. Ma cosa ha avuto? Ha avuto una visione, com'è accaduto? No, è che proprio oramai ragiono tutto in poesia e rima, perché proprio scrivere mi piace e mi ci affogo in questo mare. Sì, vabbè, si affoga in questo mare, però stia attenta, perché la prossima poesia non la declami in pubblico, aspetti un po', o perlomeno poetizzi e faccia il suo fraseggio poetico su argomenti che non coinvolgono altre persone. Parli di se stessa, dell'umido ventre, di queste cose, ma non parli più di terremoti, Marinella. Mi faccia questa gentilezza. Alla prossima.